Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Nel 2016 al valico del Brennero, quindi lungo l'autostrada A22, sono transitati 2 milioni e 100 mila mezzi pesanti, cioè l'8% in più rispetto al 2015. Un incremento trainato in particolare dai numeri registrati a novembre e dicembre. Va detto che in questi mesi in Tirolo era pure scattato il divieto settoriale per i trasporti di determinati generi di merci. Il dato è stato diffuso dalla direzione del tronco austriaco dell'Autobrennero e in sostanza ci dice che il trasporto di merci tra l'Italia e il centro Europa è in ripresa. La tendenza acquisisce ulteriore significato se comparata con l'andamento dei flussi delle auto. Anche quelli sono aumentati nel 2016, ma meno. L'incremento non supera infatti il 3%. E proprio sulla 22, in questi giorni, si torna a parlare dell'Eurovignette, cioè dell'introduzione di pedaggi differenziati per alcune categorie di veicoli sulla base dei livelli di inquinamento prodotti. In questa direzione esiste già da anni una direttiva europea. Per la 22 il passaggio all'Eurovignette è stato previsto giusto un anno fa in occasione della stesura del protocollo d'intesa sul rinnovo della concessione. Ora la provincia autonoma di Bolzano ha avviato uno studio di fattibilità che dovrà valutare l'ammontare dei pedaggi, le modalità di pagamento e la destinazione dei maggiori introiti che deriveranno dall'Eurovignette. Per ricostruire i vari passaggi della vicenda ci siamo rivolti a Carmen Springer, dirigente della ripartizione mobilità della provincia autonoma di Bolzano. Nel maggio del 2015 la giunta ha approvato un documento che era stato elaborato da un gruppo di lavoro sul trasporto merci in Alto Adige. Uno dei punti, diciamo, in questo documento era anche questo pedaggio supplementare, cioè l'Eurovignetta, applicare i mezzi pesanti maggiormente inquinanti con un sistema di pagamento elettronico, perché altrimenti come facciamo a individuare questi mezzi pesanti maggiormente inquinanti? C'è stato questo protocollo d'intesa del 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le amministrazioni pubbliche territoriali. Questo documento contiene anche chiari riferimenti al trasporto intermodale, ovvero al sostegno del trasporto ferroviario, ma anche all'applicazione delle Eurovignette. E quindi si è arrivati ad un passaggio ulteriore con lo studio di fattibilità del quale parlavamo prima. E ora cosa può succedere? In sostanza, quando eventualmente sull'auto Brennero potrebbe scattare l'Eurovignette? Già nel percorso, cioè penso nella definizione dello studio, è indispensabile uno stretto coordinamento con i ministeri competenti, ovviamente l'autostrada del Brennero A22, ma anche le province diciamo limitrofe di Trento e anche la regione del Veneto. E dopo si vedrà, cioè non è che adesso prima che venga fatto lo studio io posso già dire cosa sarà previsto. Comunque già è interessante così anche aggiungere che proprio in questo periodo, o comunque nei prossimi mesi, adesso non so quanto durerà questa fase, l'Eurovignette a livello europeo sta per essere rielaborata, comunque ritoccata. L'introduzione dell'Eurovignette da sempre suscita perplessità da parte del mondo dell'autotrasporto. Si rimarcano le conseguenze innescate dall'aggravio dei costi. Sentiamo Pasquale Russo, segretario di Unatras. La posizione dell'autotrasporto non può che essere negativa in quanto l'applicazione di un markup dovuto alla direttiva Eurovignette significa per l'autotrasporto un costo superiore che evidentemente sarà poi ribaltato sulle merci e che metterà in un ulteriore deficit di competitività le merci italiane che devono andare all'estero. Per cui prendiamo atto, sappiamo che ci sono le condizioni, diciamo, normative, giuridiche e concessorie che consentono all'A22 di poter applicare il markup dell'Eurovignette, ma ripetiamo, bisogna riflettere molto, perché non è soltanto un problema di competitività dell'autotrasporto, ma è un problema di competitività del nostro sistema industriale e della mobilità delle merci, che dovrà pagare di più per effetto dell'applicazione dell'Eurovignette. E sempre da parte di UNATRAS, che è l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, è stato sollecitato un incontro con il sottosegretario al Ministero dei Trasporti, Simona Vicari, per affrontare varie questioni a partire dalla decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali, per arrivare ad un argomento caldo di queste settimane, e cioè la paralisi dei trasporti eccezionali in seguito alla mancata concessione delle autorizzazioni al transito da parte degli enti proprietari delle strade. Come dicevamo già lunedì scorso, questa situazione di stallo è da mettere in relazione alle polemiche e i dubbi normativi sollevati dopo il crollo del cavalcavia avvenuto lo scorso ottobre in provincia di Lecco, in seguito al passaggio, come ricorderete appunto, di un trasporto eccezionale. Il 2016 sarà un anno da ricordare sul fronte delle vendite dei veicoli commerciali e industriali. Per questi ultimi, nel trimestre ottobre-dicembre, l'incremento delle immatricolazioni è stato addirittura del 107%. A fornire il quadro statistico del 2016 è stata ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. A livello annuale, l'aumento delle vendite ha toccato il 50%. Il direttore Gianmarco Giorda ci spiega i motivi che hanno indotto questa performance del mercato. Innanzitutto, il fatto che il governo abbia prorogato il superammortamento al 140%. Sicuramente questo ha fatto sì che nell'ultimo trimestre ci sia stato un dato molto molto positivo. Un altro elemento importante è stato il decreto investimenti emanato a settembre dello scorso anno, che varrà fino ad aprile del 2017, che ricordo che sostanzialmente agevola gli investimenti in autocarri elettrici a metano liquido e compresso, e agevola anche l'acquisto di rimorchi e semirimorchi. E in generale poi un clima di maggior fiducia rispetto agli anni precedenti. È indubbio che il 2016 sia stato un anno di ripresa anche per altri settori. Qui c'è in generale un clima di maggior fiducia. Non dimentichiamo comunque che stiamo parlando sempre di valori di mercato che sono ancora lontani rispetto ai valori raggiunti prima della crisi del 2008-2009. Diciamo che c'è ancora molto spazio di fronte a noi, però sicuramente i dati degli ultimi 2 o 3 anni fanno pensare a una ripresa di un trend sicuramente positivo. A proposito di mezzi pesanti, nel porto di Singapore sarà sperimentata la tecnologia del platooning, cioè convogli di tir porta container guidati dall'autista del primo mezzo, una specie di treno su gomma in movimento tra i 2 terminal del porto asiatico. E rimaniamo all'estero, prima si parlava dell'aumento dei transiti dei tir al valico del Brennero. Bene, anche nell'Eurotunnel della Manica il 2016 è stato un anno da grandi numeri. Le navette ferroviarie hanno trasportato infatti 1.641.000 veicoli industriali, con un incremento dell'11% rispetto al 2015. Torniamo in Italia, torniamo sulle strade. Nel corso del 2016 la Polizia Stradale ha accertato 2.078.000 infrazioni al codice della strada e ritirato 44.000 patenti. Un'attenzione particolare è stata rivolta ai mezzi pesanti. In questo ambito il controllo ha riguardato anche l'eventuale accertamento di violazioni rispetto alle norme che regolano il mercato. Pensiamo per esempio al cabotaggio abusivo, cioè la pratica seguita dagli operatori stranieri che effettuano trasporti nazionali oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria. Per ricapitolare il 2016 visto dalla Polstrada, al nostro microfono il vicequestore Gian Domenico Protospataro. L'attività di controllo nell'ambito del mondo dell'autotrasporto rappresenta una delle priorità della Polizia Stradale, anche per gli accordi che nel corso degli anni sono intervenuti insieme al Ministero dei Trasporti per un controllo sempre più efficace nell'ambito del trasporto, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di cose. I dati relativi al controllo nell'anno 2016 fanno registrare più di 260.000 veicoli controllati, con un incremento del 2,7% per quanto riguarda i controlli nei veicoli dei paesi europei, e un controllo che si mantiene sempre su livelli elevati anche per i veicoli extra UE. Ma specificatamente nel settore dell'autotrasporto, quali sono state le sanzioni più ricorrenti? Il dato relativo alle sanzioni vede un incremento del 31% per quanto riguarda l'articolo 46, che punisce il trasporto abusivo internazionale. Diciamo, più che cabotaggio, l'ipotesi è legata proprio al trasporto abusivo, quindi il cabotaggio rappresenta una componente ed ha questa un dato non estremamente significativo di 143 violazioni, mentre il dato più importante è legato al trasporto abusivo completamente, quindi è ovviamente disaggregato ipotesi di senza licenza comunitaria, senza autorizzazioni CEMT e quant'altro. Questo dato vede un incremento, mentre per il valore nazionale c'è una riduzione, significa che comunque nell'ambito dell'attività di controllo i soggetti nazionali sono più regolari. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento a lunedì 13.45 da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.